Dimmi se hai necessità dell'ambulanza e te la mando subito. Ma veramente io stavo ascoltando in altri canali, per cui cosa me ne affutta a me se lui non va nessuno, se qualcuno entra ne parliamo, se non pazienza, che problemi ci sono, c'è propagazione, ascolto propagazione, non se ne parla più, e tu non puoi, non sai stare, no, se non ce l'hai acceso ad ascoltare, a spiare, Tutto già colato. voce. E poi, fischi. Ok, se senti qualcosa, quello che tu chiesa, fammelo sapere. D'accordo, buon QRX Uranio, alle prossime, grazie di tutto. Ciao ciao. Alla pace dei vostri. Bene.